ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo VII. Gli affari di Don Gennaro Parascandolo. Fumando una sigaretta Tokos, il cui fumo odoroso aveva riempito la piccola stanza, Don Gennaro Parascandolo si assorbiva profondamente nello studio di un piccolo taccuino. Sfogliando le pagine di uno scadenziere, paragonando le scadenze annotate in lunga fila a certe cifre oscure ed enigmatiche, segnate nel piccolo taccuino, talvolta prendendo la penna e scrivendo qualche cosa, una parola, un numero sopra la paginetta dello scadenziere già fitta di caratteri. Lavorava assai placidamente e in silenzio in quella stanzetta del quartino in via San Giacomo di rimpetto alla borsa, un quartino che egli teneva in affitto da tempo immemorabile, che si chiamava Lo Studio, dove cominciava, sviluppava e finiva tutti i suoi affari, con una discrezione e un segreto che egli manteneva anche con sua moglie, lontana, isolata per le giornate intere in quel triste, solenne, ricchissimo appartamento del Palazzo Rossi. Quando si diceva che Don Gennarino Parascandolo era allo studio, era tutto detto. Chi lo diceva e chi ascoltava provavano egualmente un senso di rispettoso terrore, una visione paurosa di ricchezze sempre crescenti, un affluire magico di denaro che corre al denaro per incanto. Lo studio, il posto dove Don Gennaro Parascandolo, forte, saggio, audace e freddo nella sua audacia, faceva aumentare strabocchevolmente la sua fortuna. Era fatto di due stanze lo studio, in via San Giacomo. Colui che entrava colà, portasse pure nell'anima una pena inguaribile, si sentiva più calmo, come pacificato temporaneamente con l'esistenza. E la stessa faccia bonaria di Don Gennaro Parascandolo, velata ogni tanto da una nuvola di malinconia, coi suoi modi allegri e franchi, finivano di dare all'ambiente un'apparenza benigna che vinceva tutte le paure, tutte le diffidenze, tutte le preoccupazioni e metteva nelle mani del padrone di casa un visitatore inerme di difesa morale, già debole, già vinto. Tutto il grande giro degli affari di Don Gennaro era regolato dal minuto lavoro di geroglifici nel suo taccuino e da uno scadenziere anch'esso fittamente annotato di nomi, di cifre, di osservazioni. Così, in quel venerdì di marzo, dopo colazione, egli continuava a fumare la sua sigaretta Tokos, guardandone il fumo, ma quando il fedel Salvatore, dalle labbra e dal mento rasi accuratamente e dalle fedine nere, come un servitore di buona casa, discreto, taciturno, venne a dire che il signor Cesare Fragalà voleva entrare, Don Gennaro chiuse subito lo scadenziere e ripose il taccuino in tasca. «La grazia vostra, compare», entrò dicendo e sorridendo Cesare Fragalà. «Padrone mio riverito, come stanno la comare e la comarella?» «Benone, benone, Don Gennarino mio, sono di casa Fragalà, casa forte, senza malanni. Voi sempre bene, non è vero? Sempre bene. Ma a Napoli mi ci annoio. Cesarino mio, questo è un paese di straccioni. Fra una settimana me ne parto per Nizza e per Monte Carlo. Dopo vado a Parigi». «E giocate a Monte Carlo?» chiese Cesare Fragalà con uno sguardo scrutatore. «Sì, qualche poco. Guadagno spesso. Ho fortuna e imparo a giocare». «Come se vi servisse!» esclamò Cesare. «Tutto è buono a sapersi», osservò modestamente Don Gennaro Parascandolo. «Voi non ci siete mai stato?» «No», disse pensosamente Cesare. «Ho una moglie, una figlia. Pure gran bella cosa guadagnare 20, 50, 100.000 lire in una serata». E in fondo agli occhi, subitamente pieni di malinconica cupidigia, gli si leggeva la gran passione del guadagno grosso, immediato, dovuto alla fortuna, magari illecito. «Che ne fareste?» domandò Don Gennaro, prendendo un'altra sigaretta per sé e offrendone a Cesarino in un portasigarette d'argento cesellato, russo, elegantissimo. «Che ne farei? Anzitutto 50.000 lire me le scialerei, compare mio, per godermi un po' la vita in compagnia di amici, di amiche. Io non sono un egoista. E 50.000 lire mi servirebbero per aprire bottega in piazza San Ferdinando. Con la bottega in piazza Spirito Santo non le guadagnerò mai», conchiuse malinconicamente Cesarino. Pure in carnevale avete dovuto fare guadagni grossi, disse lentamente don Gennaro, scuotendo la cenere della sua sigaretta. Sì, sì, abbastanza, ma ci vorrebbe Monte Carlo o qualche altra cosa. Se no si resta a vegetare e la dote di Agnesina non si mette insieme. Poi sono sempre stretto, tanti impegni. Giusto ieri avrei dovuto restituirvi quei 500 franchi che mi avete prestato sulla parola. Sapete che sono stato sempre puntuale, ma non ho potuto. E per un giorno non importa, disse freddamente don Gennaro, la cui fisonomia si era fatta gelida da che Cesare parlava del suo debito e che guardava la nuvoletta di fumo in aria quasi per non fissare in faccia il suo compare. Gli è che neppure oggi posso pagarvi, disse rapidamente Cesare Fragalà, quasi volesse buttar via la sua pena in un colpo. Ho dovuto sdoganare un forte carico di zucchero e allora... Don Gennaro, indifferente a tutte quelle parole, taceva. «Compare mio», disse Cesare Fragalà, passando attraverso a un minuto acutissimo di spasimo. «Voi dovreste completare il favore. Domani ho una piccola scadenza di 500 lire e non sono pronto. Dovreste prestarmi voi queste 500 lire e io ve ne do 1000 sabato 21. È un gran favore e potete contare sulla mia puntualità». «Non posso», disse gelidamente don Gennaro. «Perché? Il denaro lo avete», esclamò ingenuamente Cesare. «Certamente, ma non posso». «Allora non credete alla mia solvibilità?» «Tutt'altro, ma è per obbedire a una regola. Ad amici stretti, a parenti, a persone come voi, io presto sempre 500 lire. Spesso, quasi sempre, me le restituiscono. Ma una volta che non mi sono state restituite, non ne presto più, mai più. Così non posso perdere che 500 lire. Ma io restituisco le 1000, replicò l'altro. Chi non ha potuto restituire 500 è assai imbarazzato nel restituire 1000 e chi ha mancato una volta la sua parola può mancare sempre, sentenziò don Gennaro. «Eppure non credevo che rifiutereste a un compare tal favore», mormorò Cesarino. «Mi mettete in un crudele imbarazzo. Credo che faccio bene a non darvi questo denaro», disse Parascandolo, aprendo un portafiammiferi di oro, simile a una scatoletta di fiammiferi di cartone, con una figurina miniata sopra. «Credo che vi mettiate sopra una cattiva strada. Voi frequentate della gente assai curiosa». «Avrò fatto qualche sciocchezza, lo confesso», disse con la sua lealtà di gran fanciullone Cesare, «ma è stato con buone intenzioni. D'altronde», soggiunse quasi parlando a se stesso, «quel Pasqualino De Feo è sempre in bisogno di qualche centinaio di lire. È un povero uomo, senza arte né parte. Gli spiriti lo tormentano, lo bastonano alla notte. Ha bisogno di far dire delle messe, delle preghiere per placarli, se no lo traggono alla morte. Se vi ho buttato qualche centinaio di lire, ho avuto le mie ragioni. Compare, questa cosa degli spiriti è una cosa forte. Voi avete talento e avete viaggiato, ma se sapeste tutto, vedreste che è una cosa forte». «Sarà», annuì col capo don Gennaro, «ma vi trascina sopra una cattiva strada». «No, no», esclamò Cesarino. «Ormai si deve venire a una decisione, o dentro o fuori. Forse l'avremo questa settimana, cioè domani. O ci vorrà qualche altro sacrificio la settimana ventura e si otterrà lo scopo. Compare mio», soggiunse ritornando al suo cruccio, «proprio mi dovreste favorire». «Non posso», ribatté don Gennaro. «Infine sono un negoziante onesto e chiunque vorrebbe trattare di affari con me», gridò don Cesarino con un principio di sdegno. «Se è un affare, è un'altra cosa», disse subito don Gennaro, cedendo. «Ebbene, trattiamolo come un affare», disse immediatamente calmato Cesare. Allora, quietamente, don Gennaro aprì il cassetto e ne trasse fuori una cambiale in bianco del valore di 1000 lire. Pigliando una bella penna di legno chiaro, delicatamente scolpita, con la pennina di oro vi scrisse la somma in cifre e in lettere e domandò, senza levare la testa, «Scadenza a un mese?» «A un mese», fece Cesare. Presentò la cambiale a Cesare, era intestata a Domenico Mazzocchi. «Domenico Mazzocchi?» chiese Cesare stupefatto. È il capitalista per cui lavoro, rispose glacialmente don Gennaro. E vedendo che dopo aveva firmato, Cesare Fragalà stava per aggiungere il domicilio, lo fermò avvertendolo: il domicilio della bottega. E perché? Cambiale di affari, commerciale. L'azione legale si esercita meglio dove risiede la ditta. Cesare Fragalà si sentì venir freddo nelle ossa. Non ve ne sarà bisogno. Sentì la necessità di soggiungere per rassicurare anche se stesso. E restituì la cambiale a don Gennaro Parascandolo, che la rilesse minutamente due volte. Poi aprì un altro cassetto e, cavandone della carta monetata, contò anche due volte 380 lire che consegnò a Cesare dicendo: 380. Ricontate il vostro denaro. 380? Interrogò l'altro di nuovo stupefatto. Il 12% di interesse, spiegò don Gennaro. All'anno? Chiese stupidamente Cesare Fragalà. Al mese. Un silenzio. E mentre macchinalmente Cesare Fragalà contava il denaro, non osava dire a don Gennaro Parascandolo che l'interesse era stato calcolato anche sulle prime 500 lire che gliele aveva prestate lui, don Gennaro, non il capitalista. Non disse nulla, però. Anzi, nella confusione della sua candida anima, aggiunse, alzandosi per andarsene: grazie. Che grazie? È un affare. Soltanto pensate alla scadenza. Mazzocchi non scherza, è un brutto tipo. Non dubitate, disse con un pallido sorriso Cesare Fragalà. E dopo essersi licenziato se ne andò col volto smorto e con la bocca amara di chi ha masticato l'aloe. Subito don Gennaro si rimise ai suoi conti. Ninetto Costa era entrato senza farsi annunziare. E l'agente di cambio, bruno, vivace, elegantissimo, in un vestito di lanetta inglese a quadretti, col fiore all'occhiello, con la mazzetta d'ebano nelle mani e il grosso anello di acciaio al dito mignolo, per suggello, pareva l'immagine del giovinotto felice. Si sdraiò in una poltroncina, accavallò le gambe e accese una sigaretta, cantarellando. «Buona liquidazione, lunedì?» chiese don Gennaro. «Cattiva, cattiva!» canticchiò Ninetto Costa. «Non mi sembri molto preoccupato. Sarà dunque cattiva per i tuoi clienti, non per te», disse Parascandolo. «È cattiva per me. Ci vado da 30.000 a 40.000», disse l'agente di cambio, battendosi un calzone con la mazzettina, con un atto che era ritenuto assai elegante. «Beh, e come paghi?» «Pagherò», concluse l'altro con un gesto vago. «Hai avuto varie cattive liquidazioni, mi pare. Così, così. E Lillina che mi porta via tutto», mormorò con un atto non perfettamente sincero di rammarico. «Lillina? Essa dice di no», osservò don Gennaro. «Lo ha detto a te? È la più bugiarda fra le donne». «Oh, che bugiarda! Non puoi immaginare, Gennarino!» Ed esclamava ancora con una collera un po' fittizia. «Li hai dunque questi gioielli?» soggiunse con un'ansietà che non arrivava a dissimulare sotto la noncuranza. «Sì, servono per Lillina?» «Sì, cioè, non ne sono certo, ella è troppo bugiarda. E poi ho un'altra persona in vista». «Sei un diavolo, Ninetto», disse ridendo don Gennaro. Dal solito cassetto di destra, donde aveva preso il denaro le due altre volte, don Gennaro cavò un grande astuccio di pelle e lo schiuse. Sul velluto bianco scintillarono lievemente i gioielli. Era un paio di solitari per orecchini, un braccialetto a filo di brillanti, un fiore per la testa. Ninetto Costa li guardò, battendosi le labbra col pomello della mazzettina. Si allontanò un minuto per giudicarli meglio. Faceva tutto questo con una grande disinvoltura, ma una stiratura di muscoli ogni tanto dava una cattiva espressione al suo sorriso. «Son belli, eh?» domandò a don Gennaro. «Mi pare», rispose l'altro modestamente. «Tu li daresti?» «Tu sei uomo di gusto». «Li darei, secondo la donna. A Lillina no, non so se glieli do, non lo so», proruppe nuovamente frettolosamente Ninetto Costa. «E tu credi...» soggiunse timidamente, «tu credi che valgano 20.000 lire?» «Non lo credo io. Lo crede don Domenico Mazzocchi che te li ha venduti. Io non me ne intendo. Del resto puoi farli apprezzare. Bada che sull'apprezzo ti chiederanno il 2%. E disse tutto ciò con una voce così sdegnosamente fredda che Ninetto Costa fece 2 o 3 volte per interromperlo, senza riuscirvi. «Ma sei matto? Che apprezzo? Con te, con questo tuo amico Mazzocchi, dovrei fare tal cosa? Prendere tutto questo fastidio, neppure per sogno, sarebbe offendere un amico. Ti sei segnate le scadenze? Sì, sì, sì. A 3, a 4, a 5 e a 6 mesi. 5.000 lire per volta, col deposito di rendita di mia madre, lettera e controlettera. Tutto va bene. Vuoi niente dalla borsa? Compro per te? Non faccio affari io, mi sono ritirato», disse salutando e sorridendo don Gennaro Parascandolo, mentre Ninetto Costa se ne andava via portandosi l'astuccio dei gioielli. Quando costui fu uscito, l'altro, rimasto solo, guardò l'orologio. Si faceva tardi. La strada di San Giacomo è naturalmente scura e parea già alle 4 che il giorno cadesse. Stava pensando don Gennaro se avesse dato appuntamento ad altri o se poteva andarsene, avendo finito la sua giornata, uno di quei venerdì laboriosi per tutti quelli che danno denari, banche, usurai, agenzie di pegni. No, gli parea di non aver dato appuntamento a nessun altro e poteva andarsene. Era certo che il suo cocchiere era arrivato con la carrozza per portarlo a via Caracciolo. Ma ancora una volta il fedele Salvatore entrò a dire che 3 signori cercavano di entrare. «Tre?» chiese don Gennaro pensando. «3. Fa entrare», disse l'altro ricordandosi. Il dottor Trifari, grasso, grosso, rosso nella barba e nel volto, impacciato e sospettoso, entrò cavandosi la tuba che portava sempre da provinciale stabilito a Napoli. Era con lui il professor Colaneri, dallo sguardo falso dietro gli occhiali d'oro, che salutò cavandosi il cappello con un atto ecclesiastico. Ed era con loro Scarno, con una grossa dentiera sporgente, una cravatta scozzese e un'aria palese di cretinismo, un giovanotto di 22 anni, uno studente, compaesano del dottor Trifari e scolaro del professor Colaneri. «Dunque, cavalier Parascandolo?» interrogò il dottor Trifari con una falsa cortesia che mal copriva la sua rozzezza. «Dunque di che?» rispose costui. «Ma dei denari, della cambiale», sbuffò a dire il pletorico dottore. «Ma è un assai mediocre affare», osservò don Gennaro con aria disinvolta. «Che dite? Con 3 firme, la mia, quella del professor Colaneri e quella del signor Rocco Galasso qui, dite un mediocre affare? Ma chi volete? Rothschild?» «Certamente, preferirei Rothschild a tutte le firme», osservò don Gennaro conservando il suo sorrisetto canzonatorio. «Gli affari sono gli affari», soggiunse poi con quel suo tono profondo. «E noi siamo 3 galantuomini, mi pare», squittì il professor Colaneri. «Voi siete la corona della mia testa», disse con una cortesia esagerata don Gennaro, «ma le firme debbono essere solvibili, ecco tutto. Mi sono informato, signori miei, per conto del mio sovventore Ascanio Sogliano. Capirete, io debbo metterlo al coperto da qualunque perdita, poiché amministro il suo denaro. Ora, il nostro dottor Trifari qua è un eccellente giovane, diventerà un luminare della scienza, ma la sua firma non è solvibile per 1.000 lire. Così il professore...» «Queste sono infamie!» esclamò il dottor Trifari. «Non sono venuto qui per essere insultato, per Dio. Sono bricconate!» stridette l'ipocrita Colaneri. «Dove vi siete informato?» domandò urlando Trifari. «Nei paesi vostri», rispose freddamente don Gennaro. «Naturale, al paese. Odi di politica, lotte elettorali», gridarono in coro Colaneri e Trifari soffocando di collera. «Sarà», disse Parascandolo, «ma io non debbo saperlo e a Sogliano non gliene importa niente. Dunque resta il mio rispettabile giovanotto qui, Rocco Galasso, esso è solvibile. Dunque, invece di 3.000 lire, Sogliano ne dà 1.000, con le 3 vostre firme, tanto per precauzione». «Impossibile!» tuonò Trifari, diventato violetto dallo sdegno. «Impossibile!» stridette Colaneri livido. «Come volete», finì di dire Parascandolo, alzandosi per uscire. Ma il più esterrefatto fra i 3 era il povero Rocco Galasso, lo studente che volgeva gli occhi inebetiti da Colaneri a Trifari e inghiottiva con uno sforzo come se la saliva lo soffocasse. Confusamente, senza salutare, i due uscirono dalla stanza e dal quartino, confabulando fra loro, spingendosi innanzi lo studente come una pecora matta. Placidamente Don Gennaro chiamò Salvatore per farsi spazzolare il soprabito e il servo compì la sua opera in silenzio, cercando i guanti, il cappello, mentre Parascandolo riempiva di sigarette Tokos il suo portasigarette d'argento russo. Così, ad un tratto, senza essere annunziati, i tre fecero irruzione di nuovo nella stanza, con certe facce, Colaneri e Trifari, dove la rabbia pareva buttata indietro a forza. Il Rocco Galasso, pallido, tutto umiliato, dietro a loro, un vero cane frustato. «Facciamo l'affare», mormorò Trifari, con un atto come se ingoiasse di traverso. «1000», annuì il professore Colaneri. Allora la solita scena si ripetette ancora. L'usuraio cavò una cambiale in bianco da 1000 lire dal cassetto e la porse a Rocco Galasso, che non ardì prenderla guardando negli occhi l'un dopo l'altro Colaneri e Trifari. I due, come se lo mettessero alla tortura, lo fecero sedere a un angolo della scrivania e, standogli ai fianchi, buttandoglisi addosso per sorvegliarlo meglio, gli dettavano la formula parola per parola. Egli si abbassava col naso sulla carta, miope qual era, e schiacciato dai due che gli pesavano sulle spalle, e non sapendo ancora firmato nessuna cambiale, confuso, spaventato, rimaneva con la penna sospesa, esitante. L'opera fu lunga. Stava per sbagliare la data della scadenza, il poveretto, quando Trifari gli fu sopra con un urlo: a 2 mesi! Infine, l'opera fu finita. La fronte rialzata dello studente aveva gocce di sudore in quel giorno ancora fresco di marzo. Don Gennaro intanto aveva tratto del denaro dal cassetto e lo aveva contato. 760, disse tendendo il pacchetto a Rocco Galasso. Contatevi il vostro denaro. Ma costui non osò prenderlo. Guardò ancora i suoi tutori. Colaneri stese la mano grossa e fredda e intascò rapidamente i denari, mentre Trifari guardava ferocemente. Anticipato l'interesse, eh? Chiese Trifari con un ghigno. Anticipato. Non potevate aggiungerlo nella cambiale? Ribatté Colaneri, mettendosi la mano in tasca sul denaro. No, disse seccamente Don Gennaro, che si levò di nuovo. I tre uscirono, in silenzio. Dopo 2 minuti, la vittoria portava il tranquillo e soddisfatto Don Gennaro Parascandolo alla passeggiata di via Caracciolo, dove tutti i suoi debitori passati, presenti e futuri lo salutavano con un sorriso e con una grande scappellata, mentre egli li salutava con un sorriso e con una grande scappellata. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.